Vabbè, ti saluto, va, mo cambio canale, ma da sette zapping che dicono meno cazzate di te, va. Metto zapping, certo. Ciao, Gruccia. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cominciamo con quello che viene definito il Messi degli ascolti. Anche oggi ha fatto guadagnare, anzi ieri ha fatto guadagnare dei punti a Ballarò, caro Parenzo. Si tratta di Matteo Salvini in un epico scontro con uno dei nostri ospiti preferiti, cioè dire lo scrittore Pennacchi. Lo scrittore Pennacchi, Antonio Pennacchi. E c'è uno scontro che è chiaramente epidermico, no? Perché Pennacchi non sopporta Salvini, il Nord, la Lega e tutto. Però nasce dalla parola fesserie. Chi dice fesserie? Le dice Pennacchi? Le dice Salvini? Pennacchi dice gli italiani sono razzisti. Falso. Falso. Secondo me l'Italia è uno dei paesi più accoglienti, più generosi, più solidari del mondo. Un conto è essere generosi, un conto è essere fessi, perché c'è un confine fra la generosità e la fesseria. Dire che gli italiani sono razzisti è una fesseria dal mio punto di vista. I problemi bisogna risolverli. Dal mio ne dice tante lei. Così, come dice Pennacchi? Dal mio punto di vista ne dice tante lei. Di fesserie? Sì. Vede, è opinabile. Quindi, però a me dispiace per lei. No, ma mi dispiace per lei. Io lo apprezzo, ho letto anche qualcosa, farmi dare del fesso da un signore che non conosco, che non sa come faccio dalla mattina alla sera. Non ha detto questo. Lei. Non ha detto questo. Ha cominciato lei a dare del fesso a me. Dire che gli italiani quindi, sono razzisti. Ad un fesso, è una sciocchezza. Non risponde un fesso e mezzo, ma quantomeno. Contento lei, contento. No, ha cominciato lei. Probabilmente lei con un conto in banca abbastanza ricco può dare dei razzisti a quelli che ci guardano da casa, che hanno dei problemi da arrivare a fine mese. Non mi interessa polemizzare con lei. Non mi interessa polemizzare con lei. Non mi interessa polemizzare con lei. Comunque il mio è guadagnato con lavoro. Auguri. Il tuo è fatto con denaro pubblico. Lascia perdere. Perché mi votano. Lascia perdere. Perché mi votano. Perché mi... Se dimostra che lei fa anche qua quello che è solito fare laggiù. Lei fa il provocatore. Mi scusi, allora... Beh, devo dire che però su questo punto, cioè dei soldi di Pennacchi, il conto in banca di Pennacchi... se ne poteva pure fare a meno. Ha ragione poi alla fine Pennacchione, perché i soldi che lui se... non è che ci sia un paragone da fare tra i soldi guadagnati da Salvini facendo il parlamentare, che poi non è che siano tantissimi, e i soldi guadagnati da Pennacchi. Sì, è vero però che i soldi di Salvini sono soldi che gli danno gli elettori votandolo, e dunque lo stipendio da parlamentare europeo eccetera. I soldi di Pennacchi sono soldi guadagnati con le opere d'arte, prima in fabbrica e poi prima in Ma non è che siano più nobili quelli, più nobili quei soldi lì, piuttosto è devo dire Salvini che Salvini nella sua vita ha fatto solo politica, quindi non è che pubblico, capito, sei tu adesso a criticare chi fa politica tutta la vita. Tutto non ho capito altro, anzi, e allora, altro, allora non lo criticare anzi, su questo i politici di professione va benissimo, peccato che questi qua sono gli stessi che poi a un certo punto dicono no ma noi non siamo politici di professione. Levate i soldi a Salvini, dice Pennacchi. Questo paese non può consumare di più di quello che produce. Tu devi, invece stiamo solo, devi produrre, quindi almeno le macchine male, ma levatele a chi gli va, levatele a Salvini i soldi, non dategli alle macchine. Ce li metto io, ce li metto io. Allora, Della Valle di nuovo contro gli Agnelli, vabbè, però è ripetitivo. Parenzo, pure te che hai ragione a Della Valle su questo, bisogna dire la verità, è diventata una specie di ossessione questa di Della Valle. Cioè, ovunque va, parla male degli Agnelli, di Marchionne, eccetera. E poi scusa, dove è finito questo famoso movimento di persone? Com'è che li aveva definiti? Cioè doveva scendere in campo, doveva andare da Napolitano forse addirittura. Dove è finito questo movimento? Queste persone responsabili? Dove è finito? Dove è finita questa iniziativa del signor Della Valle? Della Valle. E poi ancora con questa storia che gli Agnelli hanno avuto tutto e se ne vanno. Ma questi, certo, questo hanno preso delle cose, hanno preso aiuti di Stato, hanno dato anche lavoro, c'era la Fiat, insomma, non si può ridurre tutta la vicenda della Fiat a gli Agnelli si sono presi tutto e adesso se ne vanno. Non si può ridurre così, amico mio, amico Della Valle, su, dai, perché sei avvelenato su tante partite con gli Agnelli, ripeti come un mantra questa storia qui, dai. Quindi l'arroganza di dire faccio come mi pare, io trovo, la trovo totalmente fuori posto, ma non la può fare uno che dirige un'azienda che è di una famiglia che dall'Italia ha avuto tutto. Oggi che il paese ha bisogno, oggi che ci servirebbe davvero qualcuno che facesse due automobili per non avere 18.000 cassi integrati, questi se ne vanno alla chetichella. Poi di nuovo contro Marchionne, vende un mito che non esiste. Ragione, ma perché ha ragione? Se ne vanno alla chetichella, se ne vanno con un'operazione lunghissima. Cioè, è dicendo. Un dato che lui ma se ne vanno che sue, ai suoi in Italia. Perché vanno? Perché, altri, no? Perché la sede legale, ancora con questa storia degli operai, perché la sede legale in altri paesi? Perché si paga di meno e la colpa non è di quelli che se ne vanno, siamo noi che facciamo pagare di più e giustamente imprenditori se ne vanno. E quelli che rimangono qui sono quelli, tutti perché non hanno la possibilità di andare via, altrimenti lo farebbero. Ma non è vero, Della Valle altrimenti lo farebbero. Ma cazzi suoi, cazzi suoi, cazzi suoi. Ma che responsabilità paese, ancora con ste cazzate, dai, su. Beh, quello è Della Valle. Contro Marchionne, dai. Ma che c'entra la responsabilità, dai. Ma uno lui può salire sul piedistallo e dire quello sbaglia. Vabbè, ma andiamo. Invece dà lavoro qua. Andiamo con Marchionne, dai. Guadagna e ridistribuisce gli utili ai suoi operai. E ridistribuisce gli utili degli operai, un'altra cosa, dai, via. Quale fregatura le hai dato Renzi? Beh, la fregatura in quel caso che ha dato Matteo è quando ha raccontato che Marchionne era un esempio per il paese. Quello in quel caso ha venduto una sola assoluta. Ecco, io direi stiamoci attenti perché noi non abbiamo bisogno di fargli vedere dei miti che non esistono. E poi secondo lui di macchine Marchionne non capisce nulla. Marchionne è un signore che ha di macchine non capisce, non ne sa nulla, e se non l'avrebbe fatta qualcuna. Quando dico che non conosce di automobili, lui non ha fatto un'automobile, non è un imprenditore industriale produttore di oggetti, è un finanziere, ha fatto solo operazioni finanziarie che hanno portato bene per ora solo alla famiglia Agnelli, per il resto non abbiamo visto nulla. Ma qualcuno dice che ha salvato la Fiat. Ha salvato un pezzo della famiglia Agnelli e dalla grande debacle Fiat. Allora, Marino Crozza, stupendo, sul sindaco di Roma. Poi vi dico alcune cose su Marino, nuove, alcune cose nuove sulla saga di Ignazio Marino che ancora non è finita, Parenzo. Crozza Marino. Buonasera, scusate, buonasera. Non posso stare tanto perché ho lasciato la Panda in un passaggio a livello. Ecco appunto, vogliamo parlare un po' della sua Panda? No, guardi, basta, la Panda, no, la prego, basta. No, perché... Guardi, ho deciso, io la Panda la vendo. Ah. Panda rossa, plurimultata, bollo scaduto, assicurazione in evasa, vendesi causa malocchio. Ma come malocchio, sindaco? Sì, è un malocchio. Se non è un malocchio, come la chiama lei? Sfiga? Beh, stupendo. Allora, ci sono due cose da dire su Marino, ragazzi. La prima è che mi dicono, ma stasera ci sarà tutti in un servizio delle Iene, che alcuni vigili sostengono che le multe in realtà le ha pagate, naturalmente, ma gli verranno restituite. Dunque, caso clamoroso sarebbe. Cioè, verrà restituito quello che lui pensa sia il maltolto, cioè le multe pagate. Prima cosa. Secondo alcune cose che leggo sul giornale, c'è un altro capitolo, ne abbiamo accennato anche ieri, Parenzo, quando abbiamo detto che in realtà pare che ci sia un furgone che insieme ai vigili segue ogni volta Marino. Lui arriva a un certo punto, tira fuori la bici dal furgone e fa quei pochi chilometri che restano fino all'appuntamento. Cioè lui dice di aver fatto 35.000 chilometri in bici. Non è vero niente, secondo queste ricostruzioni. Fra poco tentiamo di chiamare un tipo che si chiama Zuliani, il quale oggi, sindaco leghista di un piccolo paese, ha detto che i rom vanno termovalorizzati, cioè bruciati. I'm a man. Sì, buongiorno, buonasera. Buonasera, chi parla? Giuliani, sono Cruciani, come sta? Cruciani sarebbe? Radio 24. Ah, salve, salve. Come sta? Sto bene, sono qua a casa con i figli. Senta, ma lei ha scritto termovalorizzare i Rom. Sì, vero, vero, sono stato un po' leggero magari nell'esprimermi, però diciamo che ho commentato ironicamente, sì? È un profilo che era ironico perché non era neanche mio nome e cognome, adesso mi è stato oscurato il profilo. Però scusi, bando alle ciance, lei ha scritto, lei è uno che non è che si tira indietro, ha detto i Rom i va termovalorizzati, dillo tu in Veneto, Parenzo, che sei più... Ma è che ha detto che i Rom i va termovalorizzati, così che ha detto, beh, si chiama anche Cristiano se non sbaglio il signor Giuliani, no? Come? No, lei si chiama Cristiano di nome, no? Sì, sì, mi chiamo Cristiano. Ecco, sì, ma sì, mi sì. Pare un atteggiamento molto poco cristiano, diciamo, questo che lei ha detto in pratica. Cioè, che no, non c'è da ridere. Lei dice che i Rom vanno messi dentro un termovalorizzatore, in sostanza no, vanno bruciati. Non, beh, come termovalorizzati, no? Non ho detto questo. E che vuol dire vanno termovalorizzati? Un termine ironico. Beh, no, ironico. Ma ironico dove? Nessuno l'ha considerato ironico. Fa ridere molto. L'ho postato sul mio profilo ironico, ecco, molte delle cose che condivido sul mio profilo hanno un aspetto ironico. Scusi, però lei ha anche spiegato che è quello che pensa la gente, o no? Beh, questo è vero, cioè, molte persone la pensano così. Cioè, come la pensano? Sono esasperati. Dai Rom. Sì, a seguito di furti, non so, voi forse non è mai capitato di entrare nei campi nomadi che si fermano nelle comunità e ci sono persone che comunque hanno auto di lusso, sì. Lasciano rifiuti, rompono idranti, è capitato anche nella mia comunità. E dunque che bisogna fare con questi? Termovalorizzarli? No. No, sicuramente no, ecco, non è che siano da termovalorizzare, sicuramente no. E che bisogna fare? La priorità era un po' una polemica nei confronti della presa politica di Laura Boldrini, ecco, che praticamente dà la priorità ai profughi e Rom quando... Sì, però d'accordo, quello è un discorso politico, lei però ha detto un'altra cosa, che i Rom vanno termovalorizzati, cioè che vanno in sostanza eliminati, cioè no, questa è... No, no, eh no, allora ritiri, si penta di quello che ha scritto. Ma guardi, ripeto che ho commentato ironicamente... Scusi, ironicamente, nella stessa pagina in cui lei dice di avere commentato ironicamente, c'è anche una citazione che riguarda suo padre, quella non era ironica però, suo padre con la camicia nera, per carità, va benissimo. No, è mio nonno. Suo nonno, scusi, suo nonno. Sì, mio nonno, sì. Perché devo rinnegare ciò che ha fatto mio nonno. Ma appunto, non è un blog, non è un profilo allora ironico. È un periodo storico nella quale gli italiani si sono scontrati, non c'era chi aveva torto, chi aveva ragione, purtroppo c'è stata una guerra. No, ma io non discuto questa roba qua, però non è che sia un... No, c'era chi aveva torto. Ma non è un profilo ironico, no. È un profilo in cui lei scrive che è orgoglioso di suo nonno, camicia nera, e di scrivere ia ia la la. Sì, mio nonno sì, ma adesso mio nonno non c'è più, cioè no, perché devo rinnegare ciò che ha fatto mio nonno? Pure lei è un po' fascista, diciamo la verità, un po' fascista lo è lei, dai su. No, mio nonno non mi ha mai... No, lei. Ma io sono di destra, non sono fascista, sono di destra. Però Mussolini qualche cosa giusta l'ha fatta. Beh, questo lo dice la gente. Purtroppo lo Stato si sta comportando in modo che sta esasperando la gente, ma perché i politici non si comportano bene, ma perché si vede che vengono tutelate altre persone prima degli italiani. Vabbè. Per cui le persone, è lo Stato che sta rivalutando la figura del Duce, non io, sa. Ma lei lo pensa, lei pensa... Il sindaco di un comunello, ecco. Certo, ma lei pensa che il Duce qualcosa di buono l'abbia fatta nella sua storia politica? Beh, se guardiamo le opere idrauliche, le bonifiche, le cose buone sono state fatte, poi chiaramente che lui ha sbagliato. Cioè, però un po' di cose sono da rimpiangere, come atteggiamento, come con la mano dura nei confronti dei crimini, che ne so. Beh, sicuramente, ma ripeto, poi non è che i delinquenti siano gli stranieri o i Rom, sono anche gli italiani. Cioè, dovrebbe agire duramente nei confronti di tutti coloro che delinquono. Restiamo alla frase che ha fatto, o la ritira o non la ritira. La ritira o no sta frase? La ritiro, sono stato leggero, devo essere sincero, sì, è vero, sono stato leggero scrivere questa frase, ecco. È stato leggero. Beh, sono stato leggero, è stata la mia leggerezza dopo, per i bisogni ausili. Ma secondo lei i Rom sono ladri? Dentro come animo, come... Non tutti, molti lo sono. Molti sono ladri. Non tutti, ce ne sono molti, ecco, perché le automobili che usano, i gioielli, eccetera, i telefoni, eccetera. Da dove arrivano quelli? Vabbè, caro Giuliani, mi raccomando, A presto, arrivederci. Buona serata, salve. Buona serata, arrivederci. Cari animalisti, oggi mi avete massacrato, cioè mi avete mandato insulti, addirittura una che è animalista, non la conoscevo, la scrittrice Isabella Santacroce, dice delle cose terribili su di me, semplicemente perché ho detto che sono a favore della caccia, ovviamente la caccia secondo le regole, a favore della caccia, sono a favore anche della vivisezione quando necessario, ovviamente secondo le regole, punto e basta, e altre cose ancora, perché mangio... perché non sono vegano e mangio tranquillamente la carne, mangio tranquillamente il pesce, perché ogni tanto non ho mai sparato ma ho accompagnato qualcuno per andare a cacciare, ho fatto qualche colpo in Madagascar, e semplicemente perché ho detto che la frase di quel segretario del partito animalista, cioè contento per la morte del presidente della regione Trentino Alto Adige, è una frase ridicola, una frase vergognosa. Rizzi, il signor Rizzi. Ci sentiamo dopo, animalisti. Ciao. Non ce la faccio più, non vi sopporto, è un programma brutto, è brutto. Vogliamo ricordare il meglio del signor Rizzi, del partito animalista, perché poi c'è una novità, qualcuno vuole addirittura denunciarlo, un deputato in Parlamento, partito animalista, il quale si rallegra e è felicissimo per la morte di un cacciatore, il quale è morto per un malore durante una battuta di caccia, poi era anche un politico, ma questo non conta. A me stupisce sempre il fatto che qualcuno si rallegri, che dica io sono felice perché è un cacciatore, cioè sono contento perché è un cacciatore, ma vabbè, Rizzi. E lei è felice per la morte di una persona, per la morte di una persona. No, di un cacciatore è diverso. Ma è una persona, è diverso, è un uomo. Non me ne può fregare di meno. È questa un uomo. Ogni giorno prendo un fucile, si esce alle 6:30 del mattino, imbraccia un fucile e sa benissimo che va ad uccidere altri esseri viventi. È morto un assassino. Scusi, ma la famiglia, di fronte al fatto, metta che qua della famiglia, ma lei sa chi se ne frega della famiglia? Ma chi se, ma cosa vuole sentirsi dire? Io, insieme, mi creda, centinaia di migliaia di migliaia di persone, ci auguriamo che questi signori si sparino tra loro, si uccidono tutto, si tolgano dalle scatole, in modo tale che gli animali possano continuare a vivere. Io non sto cambiando le carte in tavola. Si è rallegrato per la morte di una persona. E glielo confermo. Ma no, ma infatti questo va benissimo. Sono felice, Cruciani. No, Cruciani, sono felicissimo. Guardi che la famiglia, la famiglia di questo qua le dovrebbe fare un culo così, lo sa, le dovrebbe fare un culo così. Guardi, se io sono felice che quello è morto, quello Stato per cosa mi deve condannare? Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questa roba qua, lasciamo perdere. Ma lei mi dice mi deve fare un culo, che culo mi deve fare? Vabbè, io dico la famiglia per quello che lei ha detto, per quello che lei... morto, siccome è morto, non mi può più denunciare. Ma si vergogna anche di quello che ha detto. Sto dicendo che questo signore è morto. È morto. E lei pensa invece. Stava a casa e non succedeva. Perché infame poi? Infame, perché uno che prende il fucile e si mette a confronto con un povero coniglietto di mezzo chilo o di un uccellino di. Ma per lei gli animali e gli esseri umani sono. E lo squarta in mille pezzi. Ma che pensi che sia una persona per bene questa? Squarta, ha sparato. Allora, in Senato, Franco Panizza. non so che partito è, credo delle autonomie, roba dell'Alto Adige. Denuncio Rizzi. Da parte di alcuni esponenti di un sedicente partito animalista sono comparse sulla rete affermazioni ignobili, di vero e proprio giubilo per la morte di Diego, rappresentandola come giusta punizione per la vicenda dell'orso d'Anizia. Presidente, io so bene che tutto questo afferisce più alle categorie della psichiatria che a quelle della politica, eppure tutto questo è inaccettabile. Per questo stasera, come segretario del Partito Autonomista Trentino Tirolese, di cui Diego faceva parte, mi recherò in questura per sporgere denuncia contro questi vili. Io non so se sia il caso di finire in tribunale con questa cosa, denuncia nei confronti di Rizzi, poi alla fine per che cosa? Cioè, per ottenere che? Cioè, un risarcimento alla famiglia per le frasi, che cosa? Cioè... Ma se non lo fa la famiglia, non vedo perché deve farlo un deputato, minacciarlo, la famiglia potrebbe farlo perché si può sentire offesa, il deputato della Repubblica, il nostro amico, come si chiama lì? Panizza. Sì, Panizza, che tra l'altro ha usato un termine interessante, sedicente partito. Sì, questo è vero, sedicente. Lui dice perché che ci sono... Lo sedicente delle Brigate Rosse, sedicente. Sì, no, sedicente nel senso che è un partito inesistente in questo senso. Sì, no, senso. Però interessante è quello, la denuncia, no, ma se la farà la famiglia, ha tutto il diritto, se si sente offesa, di farlo, secondo me, la famiglia, ma questo qui, Panizza, allora, che si batte. Mito assoluto, Don Mazzi, il quale... La premessa è che alcuni suoi uffici sono stati allagati in questi giorni dalle sondazioni dell'Ambro, del Seves, eccetera, eccetera. Incazzato come una biscia, dice: mi auguro le sondazioni durante l'Expo. Beh, amico mio numero uno, vorrei vedere l'Expo sott'acqua. Voglio godermi la scena dell'Expo di Milano sommerso dall'acqua. Devo dire che anch'io un po' vorrei godermi questa scena, così ho una sorta di repulsione nei confronti dell'Expo per tutte le porcherie, eccetera, che sono successe, per i ritardi. Mi fa schifo questa roba qua, lo so, non lo dovrei dire, ma un po' mi fa schifo. Mi farò passare questo schifo perché poi alla fine l'occasione, i soldi, per carità, è tutto. Però lo capisco, Don Mazzi, lo capisco. Io mi auguro che l'anno 21 in pieno Expo, va bene, succeda un casino come questo, va bene? Me lo auguro, va bene, che tutti i giornali del mondo dicano che un fiumiciattolo di 3 metri e qualcosa ha fermato Milano. Ma Milano cos'è? Una città di terzo mondo? Don Mazzi numero uno assoluto. Luca da Pescara, buonasera Luca. Buonasera. Dimmi. Salve, senti, chiamo per fare un po' di informazione, sfatare la disinformazione che state facendo da tempo sulla questione animali. Sì, noi facciamo sempre disinformazione. Così, infatti. Sì. Ho sentito di cavolate dette, sì. Tipo l'essere umano è carnivoro. Sì, io non ho mai detto che l'essere umano è carnivoro. Semplicemente lei può fare il cazzo che vuole, mangiare la terra. Ma chi l'ha detto? Io non ho mai detto nulla del genere, Luca. Sì, mai detto. Un veterinario dicendo una cosa del genere. No, il veterinario può darsi, scusi, a lei piace mangiare la carne? No. Se a me piace mangiare la carne, perché devo essere considerato? Ma perché devo essere considerato un assassino? Scusi, perché? No, ma io non la considero un assassino. No, ma moltissimi mi considerano un assassino. Tutti quelli che mangiano la carne sono considerati assassini. Beh, diciamo che l'essere umano e l'essere animale hanno pari dignità in quanto esseri senzienti, questa è la verità. Pari dignità, benissimo. Se lei deve preferire se far vivere uno piuttosto. Dice anche Veronesi, non è che lo dico. Guardi, io. Senta. Perché eminenza. Scusi, gli animali sono gli animali, gli esseri umani sono gli esseri umani, punto, okay. Basta. Questa è una cretinata. No, la cretinata sono quelle che dice lei, Luca. Le cretinate sono quelle che dice lei. Posso dare una giustificazione morale a questa cosa? La giustificazione morale, amico mio, no! Amico mio. Allora, una mucca che sta per essere uccisa non vuol morire come un essere umano ed è un crimine, sì, diciamolo. Ma che vuol dire un crimine? No, ho capito che la mucca, però... ammazzare un essere indifeso quando l'essere umano non avrebbe neanche bisogno di cibarsi di carne. Solo questo voglio dire. Scusi, ma se io mi voglio mangiare la carne, se io mi voglio mangiare la... Ma saranno cazzi miei senza essere considerato lei un assassino? Ma infatti io sto telefonando non perché mi interessa Cruciani, assolutamente. Io sto telefonando per dire ai telespettatori, ai radiospettatori, che dicono un sacco di sciocchezze da tempo. Ma chi le dice? Quest'idea per cui l'essere umano è proprietario della natura e degli esseri animali è una cretinata. È una cretinata. Gli animali sono esseri senzienti che piangono, ridono e hanno un progetto di vita come gli esseri umani. Nessuno li vuole ammazzare. Nessuno ha il diritto di ammazzarli. Tutti questo però, dice, però tutti. Guardi, però guardi, tutti, non avverrà mai però questo, tutti, ovviamente. Però ma tutti gli animali, tutti. Tutti gli animali. Tutti, tutti. Animali. Lei, lei le mosche non le ammazza? No, assolutamente no. Mai ammazzato una mosca in vita assolutamente sua? Assolutamente no. Le zanzare no, si fa divorare, invece di ammazzare le zanzare si fa divorare dalle zanzare. Le scaccio, non le ammazzo. Non le ammazza, vabbè, non le ammazza. Lei sa che siamo alla malattia. Sa qual è l'ultima, l'unica zavorra dell'ecosistema? È proprio l'essere umano che è il distruttore dell'ecosistema. Quando sì, un'ape è vabbè, ma quello può darsi anche. Ma siccome siamo esseri, siccome l'universo è popolato da esseri umani e non possiamo pretendere di sparire. Ma sì, ma è popolato anche animali. Sì, anche di animali, certo, non c'è dubbio. Ma infatti nessuno uccide vede un animale per strada e lo uccide perché è un animale, un cane. No, assolutamente. Scusi, ha fatto bene quel tizio a, come dire, a esultare per la morte del cacciatore lì? Ma assolutamente no. Assolutamente io rispetto, io rispetto la vita, quindi rispetto anche un essere umano. Meno male, meno male. Davide da Milano, grazie. Davide Milano. Sì, pronto, ciao. Dimmi. Il fatto di Rizzi, tu invece devi rispettare il fatto che gli piaccia, che goda nella morte di un'altra persona. Ci sta, perché non devi rispettarli, devi rompere i coglioni. Lui ma chi gli rompe i coglioni, amico mio? L'ho chiamato, l'ho fatto parlare 20 minuti, cosa che non gli succederà mai più nella vita. Sì, ma per rompere mai i più coglioni, invece lui deve godere, lascialo godere, lasciatelo godere. A parte che io di mestiere rompo i coglioni, per cui sono pagato per rompere i coglioni. È vero, quello sì, è vero. E allora che dici? No, vabbè, però, che cazzo gli dici? Ah, non deve morire, lascialo godere che muoia. Ma goda pure, se uno gode così, gode pure. Io a Mauro da Mantova, sì, si gode nella morte di parenza, e quello gode come un bastardo. E vabbè, noi abbiamo il diritto di dire che è un cretino. Ma infatti parliamo di sposati. No. Vabbè, parliamo di sposati, ma è gente che gode così, sono idee. Non è no, ma in generale ha fatto due esempi che sono due sposati. Vabbè, ma questo è il background Zanzara. Sì, va bene, questo siamo d'accordo. Vabbè. Ma in questo caso lo spostato l'abbiamo chiamato noi, però direttamente. Cioè, non è che l'abbiamo. E non solo noi. Va bene, dai, Eugenio da Pordenone, dai. Eugenio. No, premetto che non mi importa nulla degli animali o degli animalisti, anche perché un animalista vorrei vederlo davanti a un branco di cani randagi, fa vedere il tesserino, il capobranco dice non attacchiamolo perché lui ci tiene a noi e mi fa ridere. Però condivido l'augurio che si sparino tra di loro i cacciatori. Per quale motivo? Perché a me capita spesso di andare via in mountain bike per sentieri di montagna, sì, e più di una volta ho sentito i pallini passarmi sopra la testa, poi quando incontro il cacciatore è sempre un diverbio che è finito anche le mani certe volte, sì, perché gli spavento le prede. Allora io devo starmene a casa quando questi verri avvinazzati se ne vanno in giro a sparare anche alla gente. No, guardi, Eugenio, se uno spara alla gente va preso e messo in galera, punto. Non ci sono discussioni. Se ci sono errori, quelli vengono pagati di solito. Non è che i cacciatori sono liberi di sparare dove vogliono. Dica cazzate, su. Attenzione, perché il punto è questo, che se soprattutto ti trovi in bicicletta da solo. Ma io non lo so, amico mio. Ieri come sono andato io, mi hanno detto denuncia è meglio che non la fai. Perché loro erano più di uno. Ma e che tu, puttanata, ma non è così. Ma non è così. Ma dai, Eugenio, su, fermi tutti, fermi. E lei morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo come lei. Morirà sul lavoro. Vogliamo risentire le frasi della Moretti, le frasi di Alessandra Moretti, perché dopo vi faccio ascoltare una cosa fantastica. Un ascoltatore di ieri che è intervenuto, un vecchio militante della sinistra, il quale era, non dico scandalizzato, ma di più. No, era affranto. Sì, no, ma di più, nei tuoi confronti che difendevi la Moretti e poi nei confronti della Moretti stessa, per le frasi dette dalla Moretti in questa intervista al Corriere. Anche lo stesso Cacciari ne ha dette di tutti i colori ieri. Ma sentiamo ancora la Moretti, ma proprio qualche accenno alla Moretti, tipo la Lady Like, dai, facciamo lei, il nostro stile è lei, che poi che cazzo vuol dire Lady Like? Ma che vuol dire lady like? Il nostro stile, cioè le donne che devono piacere, ma perché? No, lo donne piacenti, non necessariamente. Ma perché lo stile è questo? Ma chi l'ha detto? Ma è importante quello che dici, non si ricorda una sola parola, una sola iniziativa, non si ricorda una cosa geniale, una cosa rivoluzionaria, ma una proposta signora, di legge. Ma sono tre anni che è in campagna elettorale, saranno tre anni che è in campagna elettorale. Bersani, Renzi, Parlamento europeo, adesso. Ma quando fa le proposte? Ma chi se ne frega? Ha scritto il suo nome. Ma adesso non sto contestando il fatto che sia stata votata. Ma è una differenza fondamentale, però, perché sì, vuol dire che l'hanno scelta. Ma quindi che vuol dire? Ma non vuol dire niente. Non... Beh, insomma. Allora, da quel punto di vista, devi anche Razzi devi dire che è stato scelto. Anche Razzi è stato scelto. No, allora, Razzi è stato non scelto rompere. No, appunto, anche Razzi è stato scelto. Allora, non rompere il cazzo con Razzi. Quando io dico Razzi, meglio di piano, devi dire che sei d'accordo con me perché è stato scelto. Lady no, Lai. Diciamo, non sono d'accordo con quelli che hanno scelto Razzi. A proposito di piano, c'è pure una cosa da dire su piano, che adesso si è messo pure a fare il. A creare una nuova rivista. Ma quando ci va al Senato? Moretti. Marianna è una ministra brava, intelligente e bella, oltre che elegante. Marianna Boschi è brava, intelligente e bella, è una delle ministre più fotografate, ma giustamente, perché ha una sua eleganza, un suo stile, lo rivendica, perché il nostro stile di fare politica è uno stile ladylike, cioè uno stile che deve piacere. L'estetista. Ho deciso per esempio di andare dall'estetista ogni settimana. Cosa faccio dall'estetista? Qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa. Mi prendo cura di me, mi faccio le mesh, mi faccio la tinta, poi non entriamo in altri particolari, vado a correre, accompagno i miei figli di corsa la mattina, loro in bici, io di corsa. Su questa cosa la massacreranno sui social, no? Ma chi se ne frega? Mi potranno criticare, perché cosa devo avvenire? Con i peli, i capelli bianchi? Perché io che ho un ruolo pubblico, che rappresento tante persone e tante donne, voglio rappresentarle al meglio. Il mitologico Pino, Pino da Roma, Tipi da Zanzara, Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Pino da Roma, Pino da Roma. Mal riuscita forse, ma neanche. Ciao Giuseppe, io però non posso bloccare tutto Corso Francia perché devo sentire questa imbecillità. Allora, Parenzo, che c'entra Corso Francia? Bene, guarda, voglio tanto bene, tu poi sei da Lazio come me, quindi. Vabbè, quello non c'entra una mazza. Io voglio tanto bene, ma ha perso un'occasione per stare zitto. Che cavolo dice di Nilde Iotti? Ma come fa? Ma non ho perso nessuna occasione. Lo dica la madre dei fratelli Cervi! Ma a me lo dice dei fratelli Cervi! Ma è ovvio, erano altre epoche. Ma ha ragione, no, ma c'ha ragione. Ma no, ma siccome ha ragione. Ma lasci parlare, se no si sovrappongono le voci. Con grande sincerità, questa roba qua 20 anni fa, 10 anni fa non sarebbe stata possibile. Oggi è così perché l'aspetto del privato, dell'intimo entra nella politica a destra come a sinistra. Questo che c'è. Tu poi hai detto che la politica deve essere ladylike. Ma infatti ha detto una sciocchezza su ladylike, ha fatto una battuta, è chiaro, no? Ma è chiaro che ha fatto una battuta. Ma non è una battuta, dice Pino che è un programma, ha ragione lui. Il programma è ladylike, lo dice lui, ha ragione Cacciari. La Moretti, nel bene o nel male, forse ha sbagliato, siccome l'hanno attaccata spesso per la sua bellezza. Ma chi l'ha attaccata? Leggi i giornali, Somaro, leggi i giornali, ogni giorno dicevano le belle di Renzi, le renzine. Poi ha amato Claire Chabot. Questo è un altro discorso, certo. Vabbè, questo. Stai zitta, autolesionismo, non devi offendere chi a 18 anni andava a vendere a Montemario, che è pieno dei pacifici, lui va bussando di porta in porta. Non lo può offendere lei, queste persone, non può offendere compagni con i bracci rotti, non li può offendere. Ma vogliamo dimenticarcene di questo? Dice lui, dice sì, buttate tutto all'aria, memoria e storia non hanno più senso. Ma a me lo dice, oggi c'è Lady Like e io sarò Lady Newman. Tipi da Zanzara. Allora andiamo. Fortunato Bergamo. Buonasera. Dimmi. Io non auguro la morte a nessuno, sono un cacciatore, sono presidente provinciale dell'Associazione Cacciatori Lombardi. Sì. Conosco bene Franco Panizza perché sono di origine trentina. Sì. Però è giunto il momento di dire basta a queste persone che si esprimono in questa maniera. Così come ho denunciato Mocavero. Sì, Mocavero, che ha denunciato anche noi peraltro, ma comunque chi se ne frega. Addirittura. Sì. Ecco, e se ci saranno gli estremi denunceremo anche. Sì, ma scusi, però la denuncia a Rizzi per che cosa? Cioè, al limite alla famiglia, come diceva Parenzo prima, no, ma lui ha denunciato un'intera categoria di cittadini. Ah, lei dice perché per i cacciatori, certo, tutti assassini, devono spararsi tra di loro e morire, eccetera. Beh, noi non abbiamo più la pazienza di sopportare questi attacchi che vengono portati in questa maniera così verbosa. L'unica cosa che mi fa piacere è che i radioascoltatori hanno potuto sentire dalla radio, che sentono ogni sera come si esprimono queste persone. Per cui tolleranza zero. Aspetti, Fortunato, un attimo solo. Sentiamo Giovanni da Vicenza. Resti lì, Giovanni? Sì, buongiorno. Io volevo fare anch'io delle considerazioni. Beh, dimmi. Tanto le associazioni di cacciatori, quando escono con i loro volantini, sono qualcosa di terribile. Ecco, adesso io a suo tempo ho anche lavorato per la provincia nell'ufficio. Vabbè, lasciamo perdere i volantini, andiamo al punto, dai Giovanni, forza. Io volevo dire una cosa, ecco, il discorso qual è? Qual è? Uccidere per divertimento è una cosa mostruosa. Ecco, anche se io vado ad uccidere un uccellino, per me è una cosa mostruosa. E dunque i cacciatori che sono? I cacciatori che cosa sono? Assassini? Non solo quella delle persone, per me un cacciatore non è una persona. Non è una persona, dunque Fortunato che ci ha chiamato, Fortunato, lei non è una persona, quello che ci ha chiamato prima, Fortunato non è una persona. Sì, sono una persona, c'è un'ambulanza lì in giro? No, quelle le chiamiamo noi, non si preoccupi, però voglio dire... Io non mi permetterei mai di dire a una persona, un'altra persona, che non è una persona. Lei spara, Fortunato? Sì, io sparo. A chi spara? Nel rispetto. Vabbè, quello lo do per scontato. A chi spara? È l'uccidere per divertimento. No, per divertimento, perché anche la settimana scorsa ci siamo trovati. Abbiamo fatto. Sì, anche per divertimento. Adesso, Fortunato, no? Uno deve dirlo, anche per divertimento. È un hobby. Non è che. La caccia è una passione. Vabbè, che d'accordo. Tra i miei nonni. Ma la metta come vuole, Fortunato. Io sono dalla parte sua, perché io sono andato a caccia con mio zio, che era un grande cacciatore. Non ho nessun problema. Penso che la caccia sia una cosa storica che non va assolutamente abolita. Va chiaramente. Poi ci sono paesi stranieri che fanno i soldi con la caccia, perché noi limitiamo molto la caccia. I cacciatori italiani sono costretti, tra virgolette, ad andare in Serbia, in Spagna, dappertutto, lo so benissimo, mio zio va in Serbia addirittura a sparare, ha comprato una tenuta di caccia in Serbia, insieme a delle persone, attaccatemi, rompetemi i coglioni su questa cosa qua, sì, ha comprato, un mio parente ha comprato una tenuta di caccia in Serbia, e non mi rompete il cazzo, capito Giovanni? Ma questo non toglie il fatto che suo parente abbia comprato una tenuta di caccia per andare a divertirsi. Uno va a puttane e uno va a sparare. Beh, magari va anche a puttane, lei va a puttane, Fortunato. Capisco, per me ammazzare anche una qualsiasi creatura è un delitto. Vabbè, d'accordo, lei ha questa visione qua, perché è perfetto. E dunque manderebbe in galera i cacciatori, lei, Giovanni? Ma io guardi, il discorso sul mandarli in galera è un discorso morale. Però bisogna andare fino in fondo a questo ragionamento. Parenzo, uno non è che può rimanere appeso così. Se uno dice che. Perfettamente morale. Morale, vabbè, è un assassino, sono assassini, ammazzano altri esseri umani, però in galera no. Benissimo. Fortunato, lei va pure a puttane, oltre ad essere un cacciatore, come dice Giovanni. Ho sentito una battuta: i cacciatori amano molto la selvaggina di pelo. E dunque? Dunque veda lei, cioè amano anche la cacciabile in deroga che si chiama passera scopaiola. E non amano invece gli uccelli. Mi lasci parlare solo per prezzo. Ma non amano gli uccelli? Non amano gli uccelli, i cacciatori? Cioè esistono i cacciatori gay, sarebbe fantastico, i cacciatori omosessuali. Io non ne ho conosciuto neanche uno. Cioè i cacciatori sono tutti etero. Io evidentemente non posso affermare con certezza. Io nella mia vita ho 65 anni, 49 licenze di caccia. Non ha conosciuto un cacciatore. Non ho mai incontrato. Diciamo che l'omosessualità è in contraddizione con la caccia, secondo lei? No, non è No, cioè chi è omosessuale, no? No, è un'affermazione, no, no, no, non è così. Però secondo me sì, che... Parenzo, secondo te esistono cacciatori gay? No, secondo me è una sciocchezza, un cacciatore qualcosa c'entra. Beh, è curiosa come cosa, non c'entra ma niente. No, ma c'è sto macismo idiota, per cui io non sono mai andato a caccia, né ci penso neanche di andarci, perché è una roba che non la capisco, non mi interessa, non andrei mai a fare. Ma sei per l'abolizione della caccia o no? Non ho capito. No, assolutamente. Ah, deve essere. Vabbè, no, fermi senta, tutti, essere... fermi tutti, 30 secondi, deve fermi. Aumentata ovviamente, come vabbè, è, ma come com'è, appunto, 30 secondi. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Ragazzi, ho una piccolissima chicca per la rubrica Italia paese di merda, eh. Piccolissima chicca, proprio piccolissimo, un accenno, una cosa che mi ero tenuto proprio qui sulla bocca nei giorni scorsi, Rubrica. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Allora ragazzi, in Sicilia, caro Parenzo, mentre i musei sono costretti spesso a chiudere perché non c'è la luce, non si riescono a pagare le bollette, in fine settimana quelli non vogliono fare gli straordinari, vogliono che siano pagati tutti gli straordinari, eccetera eccetera, però i musei siciliani, siculi, hanno 306 dirigenti, signori miei, che paghiamo noi con i soldi nostri, 306 dirigenti. Sai quanti dirigenti ci sono al Ministero dei Beni Culturali in Italia? No, magari 70, a Roma, 70, a Roma. No, 191 ovviamente, no, c'è 115 in più in Sicilia, 306 dirigenti in Sicilia. C'è un'Italia di merda. Vabbè ragazzi, non fatemi arrabbiare, abbiamo con noi un grande amico, grande conduttore radiofonico, Platinette, Mauro Coruzzi, ciao! Ciao, buonasera, ho una piccola chicca, ho detto oddio se è sbagliato. Oddio, qual è la... sono piccola e non sono neanche chicca, sono una checca. Ma che, scusa, che tu sia una checca non c'è minimo dubbio, come dire. No, volevo adattarmi un po' al linguaggio, fa ancora tu non hai bisogno di scendere così, ma perché? Ma ogni scendere volta cosa? Paese di merda, quelle robe di cazzo. Ma che vuol dire? Scusa, adesso mi dai lezioni su quello che devo fare, perché non le accetto. Non te le do lezioni, a te non te le sei posso dare, ma sai, a che fare con la signora di una certa, solo quello, ma... No, ma che nel senso che secondo te non dovrei parlare di Italia paese di merda? Io sono convinto però la domanda che allora vi faccio io, dopo aver sentito questo elenco di numeri, è: il ministro Franceschini dov'è? Non se ne è accorto? Beh, sai, la Sicilia è una regione autonoma, amico mio, per cui bene, allora può fare una segnalazione da ministro qual è per il settore che gli compete relativamente a una regione autonoma, o è un paese staccato dal resto dello stivale? Beh, sì, da questo punto di vista è un paese staccato, purtroppo ci vorrebbe il commissariamento della Sicilia. Bisognerebbe... Oh signore, che brutta roba! Vabbè. Bisognerebbe smetterla con le regioni autonome. Vogliamo parlare di regioni autonome siciliane con Mauro Coruzzi? Molte persone non sanno che Mauro Coruzzi, cioè, perché uno lo vede in televisione sempre così con quella parrucca straordinaria, eccetera, anche quando canta, eccetera, eccetera. Ma uno che c'ha due palle così, cioè uno che legge, ma che fa. Ma hai mai visto lo scroto adesso? Il no, lo scroto, non, lo scroto non, lo, non te l'ho visto. Lo scroto, quello no, quello non te l'ho visto. Quanto sei buono! Ma io riesco a non dirtelo ogni volta, ma non so, guarda, io devo essere un po' come le Cougar, un po' il genere le Miss, quelle che piacciono a te, no? L'unico peccato è che io non ho quella fessura orizzontale o verticale che sia. Che a voi serve per tentare di procurarvi un piacere. Beh, diciamo che ancora io sono appassionato di quella roba lì. Poi qualcuno dice che quando provi l'uccello non puoi staccartene, è vero? Beh, è vero. Vedere che tipo di uccello, vabbè, aspettatelo, avanti tutta! No, però scusami, Mauro, Platinette alias Mauro Coruzzi. dipende dall'attrezzo, eccetera. Però in generale dico, no, c'è questa leggenda. Se uno prima o poi. Se un etero prima o poi prova l'attrezzo maschile, poi non riesce più a staccarsene, o no? Bisogna vedere che tipo di rapporto ha con questo accidente, ma il problema è un altro: noi non decidiamo mai a cosa attaccarci. Semmai il Trump si decide ad attaccarsi a noi, non so se... Sì, ma dove sei, dove sei collegato? Dall'oltretomba? Sono in uno studio di registrazione per una canzone che sto mettendo. Una canzone, facci una canzone, sì. Dai, dedichiamo una canzone a qualcuno. Fammi... potremmo, non so a chi... A Parenzo, all'Isola dei Famosi. No, la dedicherei ai due Matteo della settimana, scusa. Ah, Matteo Salvini e Matteo Renzi, dici? Beh, adesso Renzi comincia ad avere un po' paura. Per cui non vorrei che comunque... C'hanno un po' il Nero Napoli, no, in testa? Sì, due. Sì, sì. Allora io gli proverei una yesterday come Matteo, dai capelli biondo cenere, truta un po' ritorni cenere, oh cenere, oppure... Maledetto parrucchiere, che fretta c'era, quella mescia è troppo nera. Tu capisci che la demenza senile avanza. Beh, fantastica. La prima parte è dedicata a Renzi, mi sembra. La seconda, esatto. La seconda a Salvini. Salvini, sì. La seconda. Sta però esplodendo come la Lega. Ma a te piace la Lega? Guarda che non ti piace, mi dispiace, dai. Non mi dispiace, vorrei vedere se ce l'hanno duro, scusa. No, beh, dai, adesso, scusa. Come una volta, no. Cioè, a politicamente dici? Io so già come li tira a quelli della sinistra, li tira sempre allo stesso modo. Che per non fare discriminazioni, però ci sono tutti simpatici, una pompa non si lega a nessuno, quelle robe lì. Vorrei capire il mondo di destra, su questo invece settore della vita privata, sul quale, no, sono andato a Radio Padania, ma insomma, gli omosessuali della Lega vengono allo scoperto. Oppure una volta c'erano i Los Padanos, com'erano Parenzo? I Los Padanos, com'erano? I Los Padanos, sì, com'erano? Una volta c'erano i Los Padanos leghisti, adesso in realtà su queste cose qui la Lega è molto... È molto più Vatican style. È noioso. Vatican style. Che è diventata destra, come quella di Renzi, sì. Ci proporrà dei canali a venire di noiosa politica fatta con Italia. Non vedremo mai più le ballerinette. Io ho una nostalgia delle oggettine che non puoi sapere. Beh, è un mondo meraviglioso, sì. Fatto di tirarsi di varia natura. In Francia hanno ancora un presidente che va in motorino a casa dell'amante. Tu hai nostalgia dell'oggettino? Un attimo solo, primo perché rimettiamo a posto il collegamento che non si sente una mazza, secondo perché c'è la pubblicità. Boldrini, caro Parenzo, novità dalla Boldrini, perché è tornata a parlare ad un convegno che si chiama Rosa Shocking, violenza, stereotipi e altre questioni di genere. Veramente in Italia se ne inventano di tutti i colori, convegni, cose pazzesche. La Boldrini interviene ovviamente a un convegno del genere, non poteva mancare. Dice che la violenza sulle donne non conviene economicamente, ma questo, adesso francamente, la violenza sulle donne è sbagliata, punto. Cosa vuol dire non conviene economicamente? Va, sentiamo. Non solo la violenza sulle donne è qualcosa di eticamente inaccettabile, ma è anche economicamente non conveniente, perché si diceva nella ricerca... La violenza sulle donne ci costa 17 miliardi di euro l'anno e ci costa questa cifra per svariati ambiti, perché la donna che subisce violenza è una donna che ha bisogno di cure mediche, di cure psicologiche, è una donna che avrà... Vabbè, come tutti però, cioè come la violenza nei confronti di altre persone, non è che cambia molto, vabbè. È tornata di nuovo a parlare della questione del corpo delle donne, della pubblicità. Mamma mia, che noia, ragazzi. Sì, qui però citava una ricerca, lei. Sì, non è sì, citava una ricerca, ma la faceva propria, ovviamente, no? Cioè, la faceva propria. Comunque, la donna in pubblicità nuda. Io voglio le donne nude in pubblicità, mi sono rotti i coglioni. Io lo dico apertamente, va benissimo, ottimo, stupendo, meraviglioso. Le donne nude in pubblicità. Non è sessismo, amico mio, non è sessismo. Non c'è niente di sessismo. Non c'è un'immagine della donna che viene mortificata. Le donne in pubblicità devono essere, non solo ovviamente, ma è importante che siano nude nelle pubblicità, altrimenti come cazzo si vendono i prodotti? Perché ce lo dici tu, Boldrini, come si vendono i prodotti? Vuoi dare lezioni alle aziende su come si vendono i prodotti? Alcuni prodotti possono essere venduti solamente col culo delle donne, chiaro? Qualche tempo fa mi ritrovai a dire che appunto la pubblicità riproduceva un modello di donna, no? Sorpassato, modello di donna stereotipata, cioè o una donna silenziosa e seminuda o una donna che serve a tavola, che viene riprodotta in questa funzione principalmente. Questo sollevò tantissime polemiche, devo dire anche non avrei mai sospettato questo. Caro Platinette, che ne pensi della Boldrini? Cosa pensavo sentendo la Boldrini? Sì, bisognerebbe farle il trattamento Brambilla. Cioè? Nel senso, ci ricordiamo com'era Irene Pivetti all'epoca della presenza della Camera? Sì, sì. Ci ricordiamo come è diventata Catwoman dopo Brambilla? Ecco, allora ci vorrebbe lo stesso tipo di trattamento. Ma si può dire anche la cosa più interessante del mondo, con quell'entusiasmo si fa per dire nella voce che ha lei, sembra sempre che ne abbiano ammazzato tutti i gatti del quartiere ogni volta che esprime un concetto. Cioè, scusa, qual è la cura Brambilla? Cioè, no, per capire, c'è la cura. Non lo so qual è la cura Brambilla. C'è un uomo? Un uomo? Siamo diventate amicissime da allora in poi. L'altro giorno, scherzando, rispondendo a una domanda di un tuo collega che mi chiedeva delle varie partner che ho avuto nella televisione italiana con chi volessi fare qualcosa, io ho risposto che desidererei fare un porno con la Pivetti, partendo dalla dal po' all'origine e cambiando le epoche come una sorta di ritorno al futuro, la bella e la bestia, capito? Il e porno con la Pivetti. Mi ha dato un messaggio rispondendomi quando cominciamo a girare. Ma dai, porno con la Pivetti è una cosa ghiacciante, dai, ma tu non sei in grado di fare un film. Dico l'assoluta verità di una frocia fuori dagli schemi. Sono l'unica travestita di destra. Scusa, per che motivo avrei di dirti una bugia? Ma tu faresti veramente un film porno? Ma certo, me l'hanno anche proposto ai tempi, molti anni fa. Me l'ha proposto Rocco con Elio e le storie tese. Ma scusa, in che ruolo? Scusa? Nel ruolo di una cantante di un gruppo femminile, arrivava sta astronave, non so da quale galassia, scendevano sti porno cazzuti, si fottevano tutte quelle del gruppo tranne me. Io avrei dovuto fare la voyeur. Beh, capisci che ci voleva anche un coraggio ad accettare un ruolo del genere, guardare gli altri far sesso e tu non farne. Però capivo di essere una specie di continente molto esteso, per cui bisogna valicarmi prima di farmi. Ecco. Beh, ragazzi, siamo veramente al top assoluto. Ma non è un porno, è un grottesco, quello. No, ma è un porno, è l'altro che è un porno. È un grottesco. Un porno. Sai perché non ce ne sono di grotteschi in giro. Anche adesso, leggevo oggi un'intervista alla deliziosa Brigitta Bulgari, voi sapete di chi si tratta. Come no, vero? Certo. È grande porno star. Sì. Che adesso fa la disc jockey, c'è sempre modo di riconvertire il lavoro, come scusa la meravigliosa Mania, porno star d'antan. Sì, voi sì. Andate a cercare sul tubo, su YouTube, i video di cucina di Mania, fa delle ricette, verrebbe da dire, al peperoncino. La riconversione delle porno star, bravo, non bravo. È che questo sia... non c'era nel Job Act, non c'è mai stata una voce con come riconvertiamo le povere ragazze dell'Olgettina, cosa stanno facendo adesso? Pare che siano con le pezze al culo però molte. Quello fa anche molto moda, se per quello, però insomma, francamente... Senti, ma vai all'Isola dei Famosi o no? No. Te l'hanno chiesto? Sì. No, non no. In termini di concorrente. E in termini di che? Di giurato. Di opinione, se sai che con quei lavori lì, quell'urlare dietro a qualcuno le peggio cose. Nemmeno quello? No, nemmeno quello posso fare, perché sto puntando su un altro obiettivo e quindi non non ti interessa? Al momento le ho già fatte, grazie. Comunque ci va Rocco, Vabbè, ho capito, io le ho anche toccato a Rocco, giuro. Gliel'hai toccato a Rocco? Sì, sì, posso morire in questo istante. Cioè, ma come? In che situazione gliel'hai toccato? Questo è un locale della Bassa Padana che si chiama Fuori Orario, tra Reggio Emilia e Parma, dove per anni ho fatto uno spettacolo, la domenica sera, che si chiamava Silenzio, virgola. Ma com'era quando gliel'hai toccato? Moscio oppure... Lui a comando può fare in modo che si inturgidi la parte o che la parte, diciamo, si ammosci. E com'era la sensazione? La sensazione era... Di consistenza? È come prendere in mano il cambio di una nuova 500, ma non l'ho vista la nuova 500 il cambio com'è, perché i cambi sono sottili però di solito. No, beh, allora diciamo mettiamo il freno a mano della 500. La cosa più impressionante è che era la testa a decidere se l'enorme, insomma, come vogliamo chiamarlo, gioiello risplendesse o no. Quindi il sesso, ancora una volta, a comando con la testa, cioè, però è una cosa di comando, perché lui è molto scientifico in questo. Si dice gli uomini ragionano col cazzo, gli uomini ragionano con la testa, sempre che c'è una testa di cazzo, è ovvio. È così, ma io non ho capito se sei innamorato un po' di Salvini oppure di Renzi, perché ormai tutti i berlusconiani sono innamorati di Renzi. Sono i due, però entrambi sono. Guarda, se mai potessi o dovessi essere innamorato di qualcuno in questo momento, al secondo posto dopo di te c'è Scanzi, perché... Ah, Scanzi, questa è una bella rivelazione, sì, Scanzi, sei innamorato di Scanzi, ma ti piace Scanzi veramente con i capelli tutti infatti in quel modo, sempre vestito? Sì, baule al posto del culo, ha un bauletto un po' tipo Vespa di una volta, e poi è molto vanitoso, si veste sempre ton sur ton, non sbaglia mai colori. Sì, è vero, è molto curato, è molto curato. Il suo occhio, insomma, mi piace questa sinistra vanitosa, ecco. Ti piace la sinistra, adesso sì, la sinistra vanitosa, cioè te lo faresti? È semplicemente elegante, non è? Te lo faresti, insomma, te lo faresti. Certo, è che lui non farebbe bene, lui fa gabber, è un'altra cosa. Ma poi credo che sia abbastanza etero, abbastanza. Vabbè, va sull'abbastanza, le sfumature lasciamole al backup, che cacchio. È vero, ma secondo te il vero essere bisex è un vantaggio? No, è una fregatura mostruosa, e tanto è una bellissima scusa per coloro che non ammettono a se stessi di provare desiderio per i rappresentanti del proprio sesso. Per gli altri, quelli che fanno un colpo a destra, un colpo a sinistra, vagli a chiedere se dovessero eliminare la destra o la sinistra cosa eliminano tra i due, e lì avrai la verità. Sì, alla fine. Caro mio. Cioè, alla fine non esiste, la bisessualità maschile non esiste, cioè chi no, è bisex... è stata una bella scusa per tanti anni, ma è insomma, gay, chi è bisex... Poi, soprattutto gli uomini che si dichiarano bisessuali, che hanno una moglie, quelli sì, andrebbero sottoposti a pene molto severe, soprattutto per le donne a cui mentono, quello è insopportabile per me. Senti, ma questa svolta gay di Berlusca e della Pascale, come l'hai vista? Bene? Sei stato contento? Ma non nuova, perché esiste già nei paesi della monarchia del nord Europa da decine d'anni, per cui... Cosa? Non stiamo inventando niente. Io il momento di grazia l'ho visto quando i radicali erano ad Arcore. Da lì in poi ho visto un intristirsi della politica, perché lì c'era la possibilità di un contatto tra ciò che manca alla destra, che è la tutela dei diritti civili e tutta quella roba. Invece adesso che è la farsa? È una farsa. Adesso più che la farsa i radicali sono morti o in agonia, per cui non si sentono più intervenire su nessun tema, se non quello dell'eutanasia. Sì. Sul fronte dei diritti destra e sinistra sono comportati uguali. Sai, la politica rischia non di essere poco noiosa, di essere poco determinante ai fini della qualità della nostra vita, al di là del lavoro, al di là dell'economia, c'è poi tutto il resto, no? Non c'è niente di più utile del superfluo, come dice qualcuno. E beh, la Moretti è una renzina, come diceva Cacciari ieri da noi, la quale dice che le donne di sinistra devono andarsi a fare la ceretta dall'estetista una volta a settimana. Che... Se la cucinotta sia di destra o di sinistra, la cucinotta probabilmente ci andrà tutte le settimane, se no le crescono i baffi come le che poi ragazzi questa storia della ceretta e della depilazione io non la capisco, perché uno si deve depilare per forza, ma io odio la depilazione. Tu quando accarezzi la gamba di una donna accarezzi la gamba di un orango o di un no, ma la depilazione intima dico io, perché lei ha fatto intendere la Moretti che in realtà si depila anche in, a meno una pelata, mamma, deve essere orrenda. Beh, perché anche tu sei, anche a te piace il pelo, alle donne tu non le togli. Ma l'ultima volta che hai visto una figa, quando è stata? Quando Marina Ripa di Meana l'ha esposta in Piazza Farnese a Roma. Basta. E ho avuto dei cognati di vomito. Ma tu non sei mai andato, Plati, non sei mai andato con nessuno? Sì, no, ho donne. Fatto degli errori di adolescenza, ho avuto più di una fidanzata e purtroppo anche ho avuto dei rapporti sessuali definiti completi. Mamma mia, che orrore che deve essere stato. Non sapevo dove, cioè sai quando il godimento per me è una questione anche un po' una forma espressiva artistica. Sì, sì. Un uomo con un uomo può avere dei, può fare dei versi anche un po' animaleschi. Con la donna la puoi fare perché si spaventano e hanno ragione, quindi ho lasciato perdere. Però conservo ancora buoni rapporti, non di natura sessuale. La Alberti, una mia grande amica, Barbara Alberti, dice che io sono un eterosessuale mancato e che non la infinocchierò mai col mio essere frocio, perché secondo lei... Non lo sei. No. Ma che poi secondo me tu non è difficile pure che hai fidanzati, hai amanti più che altro, ogni tanto fai sesso. Sì, paghi qualcuno o no ogni tanto? Ma chi vuoi che paghi? Scusa. scusami, ma ti ma che mica, con... mica c'è niente di strano a pagare qualcuno? No, no, no, no, assolutamente, ma figuriamoci, in passato e anche hai pagato. Domani non, prevedo, non, non escludo di poterlo fare, ma c'è una insoddisfazione di fondo perché non pagano le tasse, a me vengono i nervi. Allora, se accettano di farmi una ricevuta, volentieri, la ricevuta deve essere motivata. Senti, come l'idraulico, quando arriva, se l'idraulico sai, è sempre una questione di tubi, no? Sì, il classico idraulico. Sì. Se decidi di fare una prestazione supplementare, se ne vale la pena, perché altrimenti non si paga per nulla, che però ti faccio la dichiarazione dei redditi e in un qualche modo legalizziamo la sta prostituzione. Legalizziamola, cazzo. Io adoro questo. Io secondo me dovrebbe avere tre ore in radio da solo a fare, tipo, sai, come quelli in America, Parenzo. Cioè, ma c'è Platinette, c'è tre ore da solo in radio con gli ascoltatori. Cioè, così bisognerebbe fare. Date tre ore a Mauro, su, non ma qua. Grazie, ti ringrazio. Dai, tre ore. Superio, no, scherzo, io sto bene. Senti, Corona merita la grazia oppure no? Perché io sono incazzato, tu lo conosci bene. Corona. Ah, Fabrizio, sì, lo conosco. La madre è tornata a parlare di grazia, eccetera, eccetera. Ma certo che merita la grazia. Ma che merita, c'è un sacco di gente nelle sue condizioni, dai, su. Ma su questo non c'è dubbio, ancora la meriterebbero anche loro. Ma andasse in cosa, andasse, si facesse curare, per carità, anche i domiciliari, se è il caso, però no, la grazia, perché la grazia? Guarda, perché no, il problema è un altro, di fronte non è un esempio da seguire, no? Perché c'è questa storia del bandito e via, è un avventuriero bello come pochi. Vabbè, ho capito, quello che vuol dire. Perché è un rivale. Ma no, ma figurati, ma se lo voglio in galera, io non voglio in galera nessuno. Ma se fate Belen Rodriguez e Nina Morić, capisci che vabbè, tutti gli altri uomini non possono che odiarlo? È vero che gli altri uomini, ma io non conosco l'invidia da questo punto di vista, non me ne fotte nulla e non mi piacciono. Anche perché tu hai avuto una love story con una donna bellissima, mia amica, che si chiama Gianluca Relli. Oddio, cui... ma non mi parlare di queste cose passate, no, dai. Tanto di tetta, tanto di cervello. Dico solo che una bella col cervello è molto più attraente di tante altre. Vabbè, basta. Ho capito, non mi parlare del passato, che odio parlare del passato. Sai, cose vecchie, passate, finite. No, lo voglio il gossip. Non mi convinto e non fare la radio. No, ma lo voglio il gossip, lo voglio per carità, ma non... Allora. Perché devo parlare delle persone che poi devo parlarne male, magari? No, non devi parlare male, volevo soltanto dirti che, ad esempio, il 28 di questo mese... Che fa? Che alla Mondadori, a Corso Marghera. Che succede? Siamo insieme, se va Dio, per parlare di donne della televisione. Vabbè, tanti auguri. Sentiranno delle belle. Tanti auguri. Tanti grazie. Tantissimi auguri. Senti, una cosa sola ti voglio chiedere, ma Baldini, secondo te che cosa ha Marco Baldini? Dimmi non la verità. Credo che abbia, come dice, paura di non essere più all'altezza. Ha capito di non essere più all'altezza, è un po' diverso. Non ha capito di non essere, cioè non c'entrano niente le 150 telefonate di cui parla, questa non te lo so dire. I creditori, no, ma la tua sensazione, dai, dimmi la verità, perché non bisogna essere ipocriti. Quando ho cominciato a DJ, arrivavo la mattina alle 6 e lavoravo insieme a lui, e sotto un giorno sì, un giorno no, c'era una persona ad aspettare. Quello però 20 anni fa, 30 anni fa, quando era? 15 anni fa. Lui dice che le cose siano ancora in questi termini, che ha un sacco di debiti. Io ho l'impressione che abbia invece un po' troppo, in qualche maniera, svantaggiato il suo lavoro, perché noi sì, ma questa cosa qui, no? Lui è prigioniero anche di questo personaggio, cioè del giocatore che deve dei soldi. Sì, e che da quello non riesce a uscire. L'evoluzione anche alla radio. Ma secondo te è vero o no? È vero o no questa cosa? Cioè, è vera alla fine che è così drammatica la situazione ed è per questo che lascia Fiorello, oppure è una scusa, un'invenzione? No, ma è una domanda che ti faccio, perché no, se la pongono in molti, ma nessuno ha il coraggio di dirla. Non sia così grave, ma che è stato ad esempio un mese a DJ, poi pretendeva più denaro di quello che gli si poteva dare, da quello che so io, ma il programma non era così brillante come è stato in passato. Cioè, tu dici che ha perso creatività lui? Ed essendo una persona leale e onesta... Non si sente all'altezza. Esattamente quello, e l'ho anche detto... Ma ha detto con un forse, io toglierei il forse, il vero problema è quello. Ti abbraccio, a presto, ciao. A te, ciao. Ciao. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e chi avrei corteggiato. Gianfranco, Roma. Eccomi. Vai. Io volevo dire una cosa, sentivo prima sui rom, no? Non so, tutti quelli che difendono i rom, io vorrei domandargli una cosa: se hanno mai ricevuto una bella visita di questi signori in casa? A me mi hanno sfasciato a casa, sono entrati, hanno rubato tutto quello che potevano rubare. Sì. E poi non basta, sputato nei muri, proprio uno schifo. Hanno cagato pure per terra magari, no? Insomma, guardi, questo mi sono salvato, ma i sputi da tutte le parti, non ho capito perché poi. Vabbè, avranno sputato. Sputato. Quindi questi signori che li difendono, no? Ma io gli domando, ma avete mai ricevuto una visita in casa? Sì, ma uno però non è che sono gli unici ladri d'appartamenti in Italia, non è che sono i rom. Io non difendo mai i rom. Cioè chi delinque per me va bastonato questi duramente. Questi erano rom, d'accordo, ma non è che i ladri d'appartamento, i topi di appartamento sono solo rom, in Italia. No, sicuramente non sono. Ma lei che farebbe con i rom? Non ho capito, Gianfranco. Io che farei? A me non mi sono simpatici. Vabbè, d'accordo. Quando uno dice non mi sono simpatici, d'accordo, ma che farebbe lei concretamente? Li caccerebbe via dall'Italia tutti quanti? Che farebbe? Ma non li caccerei via, però li metterei in condizioni che loro devono lavorare come gli altri, devono pagare come gli altri i servizi, tutte queste cose qua. Perché se è difficile. Ah, che debbano pagare come gli altri, sicuro, che non siamo, come dire, che non dobbiamo essere noi a pagare la luce, l'elettricità, eccetera. Su quello cose. Non c'è il minimo dubbio. Vabbè, c'è il traffico, dai, Parenzo è silente, silenzioso, traffico. Logico Antonio Razzi questa mattina ad Agorà sul Quirinale. Era una cazzata pazzesca, ragazzi, ma come si fa a pensare che lui sul suo profilo Twitter, che ci sono un sacco di fake, scriva che vuole andare al Quirinale? È una cosa ridicola, però qualsiasi soffio ormai fa Razzi, anche per colpa nostra o merito nostro, non lo so, diventa una notizia su cui discutere. Razzi e il Quirinale. È uscito questo tweet ieri, Antonio Razzi, girano voci di una mia possibile candidatura al Quirinale, non c'è nulla di più falso. Noi era questa la buona notizia con cui volevamo chiudere, ma chi gliel'ha chiesto? No, ma chi gliel'ha chiesto di candidarsi al Quirinale? Io Twitter non l'ho aperto e non ce l'ho. Come non c'è? È tutto falso quello che si dice. Ah, è un fake? Ma ci aveva mai appena ho Facebook che lo vede una volta alla settimana, perché non ho tempo nemmeno di guardarlo. Va bene, però questa, diciamo, può essere una buona notizia. Ci ha mai pensato, hai mai sognato una cosa del genere, al Quirinale? No, non sono all'altezza. Poi sbaglia il nome della Pinotti, sentite come la chiama Pinotti, che ha altri problemi, tra l'altro. Però lei è all'altezza di dirmi chi preferirebbe, lei? Ma ci sono tanti personaggi, anche bravissime donne. Me lo fa una donna del centrodestra, secondo lei, che potrebbe diventare presidente e andare al Quirinale? Io ho detto alcuni giorni fa, se devo scegliere preferisco Gianni Letta. Va bene, che però non è una donna. Senta, mi dica una cosa. Dalla parte del PD preferisco Roberta Pinati. Pinotti. Roberta Pinati, stupendo, meraviglioso. Massimiliano, Roma. Buonasera Cruciani. Buonasera Parenzo. Vai Massimiliano, ciao. Vai. Una cosa Cruciani, allora, per quanto riguarda i zingari, due giorni fa ho sentito che a Roma, al McDonald's di Viale Europa, due zingari hanno preso una bambina, una carrozzina con dentro una bambina di 6 mesi. Io non ce l'ho coi zingari, però se fanno ste cose non è possibile. Poi Cruciani, un'altra cosa. Ma i reati sono reati, infatti, ma scusa, ma che discorso è? È evidente. Cioè, questo non è che. No, ma questo è un reato grave, Parenzo. Ma i reati non è che hanno il colore della pelle, i reati sono. Vabbè, poi Massimiliano, poi? Un bambino. L'altra cosa era. Vieni a cena, ti invito io, ti porto da Agata e Romeo qui. Non andare con Riccardo, con i tassisti. Perché è bruttissimo. Dove vai con Riccardo? Sei una persona seria, Cruciani. Massimiliano, scusa, ma io vado a cena con chi mi pare. Sono andato, ho passato una meravigliosa serata con gli amici del Riccardo Fans Club di Roma. Che cos'hai contro Riccardo, poi? Non ho capito. Ma tu sei un buon gustaio, dove vai? Ti portano lascia perdere. Io non vado da Agata e Romeo, dove dici tu, a parte che a Roma sono 3 mesi che non ci vengo, è meglio che non ci vengo, che non me ne frega niente. Però Massimiliano, voglio dire una cosa, ma qual è il problema di Riccardo da Roma o i fans di Riccardo da Roma? Spiegami. I fan di Riccardo da Roma, hai detto i tassisti, così io li conosco perché ho praticato un po', ho fatto il tassista e so. Ma che hanno questi qua di male? Se non ho capito, che fanno di male? I tassisti sono Riccardo è una brutta persona, dai Cruciani. Riccardo perché? È una brutta persona. Perché? Solite cose che si rivolge a Narella. Su, Annarella, perché? Che hai tu con Annarella? Scusa. Ha ragione. No, ma si deve imparare l'educazione. Perché. Ma che rapporti hai con Annarella tu? Ma io lascia perdere che rapporti ho. Io sono un fazzo di Annarella, va bene? Ma Riccardo, allora, svegliamo un po' a Massimiliano, no, scusami. No, non facciamo. Ha trattato malissimo. Non facciamo, sì, va bene, non facciamo gli stupidi, però. Massimiliano, io ho scritto qua sopra perché me l'hanno scritto, ma volevo che lo dicessi tu. Nipote di Annarella, è vero o no? Sì. Ma di che? È mia nonna. È tua nonna di primo grado? È mia nonna di secondo grado. Ah, vabbè. Ho capito. Comunque questo non c'è, non è vabbè, se l'è presa con Annarella, ma chi se ne frega, dai, su. Ma come chi se ne frega, Cruciani, ma dai. Vabbè, ha attaccato Annarella, ragazzi, ma dai, no, forza. Ha attaccato di brutto, insomma, l'attaccata di brutto, lo sappiamo, l'abbiamo ascoltato. Vabbè, gli ha detto vecchia babbiona, prendi la pensione, te la paghiamo noi, eccetera, vabbè, no, pazienza. Guarda, se diceva solo quello era pure simpatico, perché cioè, se poteva fare una risata e tutto quanto, bravo, però è stato volgare, insomma. Che poi, sai cosa, Cruciani? Chi ci rimette di più, cioè chi perde nella maleducazione, sai chi sono? Sono i genitori, perché se tu sei una persona educata, il primo ad elogiare sono i senti genitori, vabbè, no? Ma non, Riccardo da Roma è uno che ha la sua verve, il suo modo di parlare, a me piace, che ti devo dire, a me piace, poi, sì, magari sì, non sono d'accordo, a me piace da morire, che ti devo dire, Massimiliano, ciao. Vabbè, Franco, vabbè, da Parma. Buona Franco serata, ciao. Franco Parma, pronto, dimmi. Ciao Parenzo e ciao Luciani. Vai. Ascolta, io volevo dire a quell'imbecille, si chiama Rizzi se non sbaglio. Sì. Ecco, io sono un appassionato cacciatore, vado a pesca, sì. Quando c'è da uccidere un animale dai miei genitori, dai conigli, alle occhie, alle galline, lo faccio io. Sì. E sono gay. Sei pure frocio? Questo non è vero, esatto. Ma dai, adesso stai esagerando, dai, no, Franco. Ma per niente, ho chiamato anche l'altro giorno per un'altra cosa e non mi avete richiamato. Tu sei un cacciatore gay? Io non sono cacciatore, sono appassionato, ci sono andato, non ho mai avuto una licenza. E quando hai scoperto? Sono più selvaggina io degli altri, diciamo. Quando hai scoperto di essere frocio, scusa? Quando mi sono separato. Cioè ti sei separato e poi hai scoperto che ti piaceva in realtà il maschio? Cioè durante, sì, il matrimonio, cosa, durante il matrimonio però... È comunque vera, se lo provi una volta non lo molli più. Ma dai Franco, mi stai pigliando in giro, dai, non è vero. Ma neanche per sogno. Cioè durante il matrimonio ogni tanto hai assaggiato No, mi sono innamorato dell'amico di famiglia. Ma dai, ma è una storia bellissima questa qua. Se è vera è una storia straordinaria. L'amico di famiglia, ma che significa? Chiamami quando vuoi. Ma l'amico di famiglia che vuol dire l'amico di famiglia? Con l'amico di famiglia io sono già nonno, fra l'altro. Ho due bellissime figlie e due bellissime nipotine e l'amico di famiglia sono 25 anni che è il mio compagno, viviamo insieme. Beh, e perché ti sei sposato durante questi 25 anni? Io mi sono sposato a 22 anni e poi ho scoperto questa cosa, per fortuna che l'ho scoperta, bellissima per me. Ne ho parlato. Ma è vero che quando si prova allora non si molla più? Non si molla più, è vero. Ma veramente stai dicendo? Anche per... No, io non scherzo, te lo giuro, su quello che vuoi. Ascoltami una cosa, io penso addirittura che l'amore, il sesso più virile, no l'amore, la relazione più virile è assolutamente fra due uomini. Io di mia moglie che mi parlava delle cazzatine, del mercato, dell'uncinetto, di questo e di quell'altro. No, io con il mio compagno siamo appassionati, facciamo parapendio, andiamo a sciare, andiamo a funghi, i discorsi sono diversi. E il sesso ancora lo fate? Assolutamente sì, l'amore. L'amore, il sesso si fa in giro, fa compagni, si fa l'amore. Ciao, a presto, ciao. Ciao Giuseppe. Ecco, io sono un appassionato cacciatore, vado a pesca, sì. Quando c'è da uccidere un animale dai miei genitori, dai conigli, alle occhie, alle galline, lo faccio io, e sono gay. Oh ragazzi, c'è la storia di quel tassista di Milano che è stato ucciso, era credo il 23 febbraio scorso, Alfredo Famoso, e hanno dato 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale a un tizio che si chiama Davide Guglielmo Righi, che insieme alla donna era stato sfiorato, la fidanzata, la moglie, quello che aveva preso a bottigliate. A bottigliate. Ora gli dico, gli hanno dato a questo tizio 10 anni, no? Allora, per carità, io non so come sia andato il processo, eccetera. Io continuo a pensare che, al di là della tecnicalità dell'omicidio preterintenzionale, omicidio volontario, quello che è, capisco benissimo la differenza, non è quello. Continuo a pensare che qualcuno che prende a bottigliate in testa un'altra persona, e questa persona poi muore, 10 anni, che poi si riducono a un tot di anni, perché nessuno mai farà 10 anni, no? Francamente penso che siano troppo poco. Davvero penso che siano troppo poco. Allora, qui ci sono tanti sassisti che ci ascoltano, eccetera. Ma voi davvero pensate che una persona possa essere condannata a 10 anni per l'uccisione di qualcuno? Adesso, al di là delle differenze, so benissimo, omicidio volontario, c'è stata una semilite. Quello però è la legge. Ho capito, ma è sbagliato, cazzo. Uno non può essere condannato solo a 10 anni che poi si riducono a 7 per avere ammazzato uno. Lo ha ammazzato a bottigliate. Certo, magari con la bottiglia non lo voleva ammazzare. Lo scopo non era quello di farlo fuori. È per questo che ha preso 10 anni. Ma alla fine quello è morto. E tu hai preso 10 anni, cazzo. 10 anni, dai, mi sembra 10 anni che per carità sono è tanto tempo quello che uno passa. 10 anni in carcere sono un'enormità, naturalmente. Quello ne ha 49. Sì, amico mio, ma 10 anni non li farà, perché si ridurranno. 59. Si ridurranno. Nicolò, La Spezia. Sì, pronto. Dimmi. Pronto, buonasera. Volevo fare un mio intervento riguardo agli animalisti. Sì, pronto? Sì, dimmi, vai. Allora. Sì, ma scusami, togliti l'auricolare, non ti mettere col viva voce, Nicolò, dai. Sì. Dai, cazzo, su, pure tu ti ci metti, dai. Allora, ma le piante sono o non sono degli esseri viventi? Hanno un ciclo biologico, nascono, crescono, muoiono, e quindi definire assassino chi mangia carne o chi va a caccia non mi sembra una cosa molto, molto logica, molto, molto intelligente. Beh, a me lo dici, cioè. Beh, le piante non hanno un cervello, però, si ammalano, vengono nutrite anche, quindi hanno un ciclo biologico, hanno. Non hanno. Poi un'altra cosa vorrei dire. Dimmi. Ovviamente questi animalisti avranno anche degli animali domestici, dei cani, dei gatti. Daranno da mangiare della carne a questi cani o gatti, che compreranno presso i discount, presso diversi negozi, quindi contribuiscono anche loro alle uccisioni di animali, a questo mercato della morte, come lo definiscono loro. Ma non lo so cosa danno da mangiare, certamente potrebbero dare anche la carne presa da uccisioni di altri animali, non c'è dubbio. Certo, cioè, è per forza, perché finora un cane vegano non l'ho ancora visto, non esistono ancora, per cui non... Per forza, uno che ha, anche chi ha un gatto, il mangiare scatole è fatto con carne di pollo, carne di agnello, quindi. E magari ci sono persone che nutrono gli animali in maniera, come dire, pulita rispetto alle loro credenze, rispetto ai loro convincimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Sai, Parenzo, che è diventato un fierissimo alleato della destra? Della destra? Quale destra? Della destra, cioè della Lega, voglio dire, della Lega. Perché la destra è quella di Storace, la destra. Adesso fra poco te lo presento, eh. Matteo da Modena. Pronto, buonasera. Dimmi. Io voglio sapere se voi state facendo un po' delle differenze tra i ladri di Serie A e i ladri di Serie B. No, che differenza abbiamo fatto? Ho risposto all'ascoltatore di prima che diceva che un rom gli aveva rubato dentro casa uno zingaro. Cioè, ho punto. Capito, però perché non si sente mai dire, per esempio, cioè, queste qua sono le tante pagliazzate della Lega. Cioè, se non ci fossero i rom ci sarebbero i terrori. Se non ci fossero i terrori ci sarebbero i polentoni. Cioè, ci sarà sempre qualcuno che ruba dentro le case, dici tu. Dove sono i ladri? I ladri sono dappertutto. Premetto che i rom mi stanno sul cazzo anche a me, però voglio dire, cioè, non è che sono quegli altri che sono tutte acqua di rosa, ecco, voglio dire. Allora, non perché non diciamo, allora i rom bisogna dargli fuoco e i camorristi cosa li facciamo? No, ma hai ragione tu, eh. I ladri sono dappertutto. La cosa assurda è devo dire la verità, però ho capito, ma che esista un tasso di criminalità molto alto all'interno dei campi, allora, sarà vero o no? È vero, punto. Allora andate fino in fondo. Perché i rom sono l'unica categoria di per... Ma no, ma i rom, voi sono l'unica categoria di cosiddetti criminali, perché così li definite voi in massa, che sembra che i rom in quanto rom siano criminali, che si sa dove stanno, andate a prenderli. Beh, ma infatti non capisco perché, per esempio, cioè, l'illegalità... Ma io, guarda, vorrei che l'illegalità dentro i campi rom... No, scusami Davide, ma io infatti vorrei che l'illegalità dentro i campi rom, che è palese, evidente, lampante in tutto e per tutto, spesso in molti campi rom, fosse repressa con, anche con una certa durezza dal punto di vista della legge, ovviamente, e con una certa celerità. Invece si lasciano passare tantissime cose. Che è stato in collegamento con noi era per farti una sorpresa, Parenzo, la sorpresa era questa. Yonghi, esatto, Roberto Yonghi Lavarini, Roberto Yonghi Cretini, da una delle tante cene che in tutta Italia raccolgono 1 milione di patrioti che festeggiano la rivoluzione fascista e Benito Dove Mussolini. Siete che vi mandiamo qualcuno a fare una retata? Un altro saluto a Parenzo. Yonghi Lavarini? Buonasera Cruciani e buonasera anche a Parenzo. Ma ancora libero, Ma perché? Ancora libero, vegeto e attivo in difesa della patria, del popolo e della nazione, caro Parenzo. Alla facciaccia sua. Espatriano sempre i migliori. Scusi, Barone Nero, io voglio capire una cosa, ma avete un nuovo leader, mi sembra, in Matteo Salvini, no? Come vede l'ascesa di Matteo Salvini? Lei che appartiene alla destra storica italiana, Barone. Direi che finalmente c'è qualcuno che sta costruendo anche in Italia un fronte nazionale come quello di Marine Le Pen in Francia. Allora, ma che analogia? Vada avanti così Salvini e insieme alle destre costruisca questo grande fronte nazionale di cui c'è assolutamente bisogno anche in Italia. Scusi, Barone, ma che analogie ci sono tra Salvini e Barone Nero, così si chiama? Perché non è Barone secondo te? Ma chi va, poveretto, Barone, dai, Baroni non sono così, Baroni sono conosciuti i Baroni veri. Ma è Barone, detto il Barone Nero, Roberto, è un baro, è un baro. Dai, lo stai calunniando così, scusami, dai. No, è un baro, un tarocco del fascismo, un baro del fascismo. Dai. Scusi, Barone, ma che analogie ci sono tra Salvini e il Duce? Con il Duce direi decisamente poche, però si sta creando anche in Italia, come il vostro Duce, un fronte identitario popolare in difesa dei diritti del popolo italiano. Ma oggi è il vostro Duce Salvini, da un certo punto di vista? No, non mescoliamo il sacro col profano. È sicuramente un politico che guardiamo con attenzione Ma purtroppo, dici, purtroppo un altro Duce non c'è. Purtroppo un altro Duce non lo vede all'orizzonte, purtroppo. No. Purtroppo lo dicono anche gli italiani. Gli italiani. Sì, la stragrande maggioranza degli italiani, visto questa situazione economica, vorrebbero sociale, Duce, politica, vorrebbe... dicono si stava meglio quando si stava peggio. Ma no, Barone, su si questa. Vorrebbe ancora Duce. Ma non lo dicono in nessuno. Tutti i quartieri, lo dicono parlando delle banche, lo dicono parlando degli zingari, degli immigrati extracomunitari. Ma non lo dice nessuno, ma poi il Duce gli zingari li avrebbe accolti, gli extracomunitari li avrebbe accolti. Che avrebbe fatto il Duce con gli zingari, secondo lei? Intanto noi, avendo costruito un impero di civiltà in Africa, non avevamo immigrati, anzi erano gli italiani che andavano a portare civiltà e lavoro in Africa. Ma che impero? Erano quattro scherzi. Se avessimo ancora le colonie non avremmo il problema dell'immigrazione. Cioè, perché lei... Ma perché lei rimpiange le colonie? Assolutamente sì, e devo dire che ormai le rimpiangono gli stessi africani. Cioè, secondo lei i negri vanno tenuti abbandonati, abbiamo visto come sono finiti, cioè, nella miseria, nell'anarchia, nel caos, nella violenza. Secondo lei perché non ci fa una cortesia? Perché non va intanto un po' in avamposto, in avanscoperta in Libia? Vada un po' lì, dai. Secondo lei gli africani vanno tenuti al guinzaglio, questa è la realtà, un po'. Non al guinzaglio, vanno aiutati. Cioè, sono inferiori. Vanno aiutati a crescere sul posto. Ma sono inferiori o no? Invece l'Occidente, con la balla della democrazia, ha abbandonato le colonie e l'Africa, lasciandoli nel disastro più assoluto, e lasciamo l'Africa e gli immigrati sfruttati sfruttati dalle multinazionali, dal libero mercato. Le colonie, soprattutto le colonie italiane, portavano civiltà, lavoro, benessere, strade, infrastrutture, scuole. Sono contentissimi gli africani, i nostri africani delle colonie del Corno d'Africa, ma lei con il granaio libico, ma che granaio libico, in quelle terre, ma non ci sarebbe problema, ma non possiamo tornare, amico mio. Vabbè, comunque, senta, ma gli zingari ciclica, non c'è dubbio, tutto può cambiare, cioè, tutto cambierà e tutto cambierà. Lei si augura, sta cambiando, lei caro alleato di Salvini, si augura il ritorno del fascismo? Beh sì, diciamo la verità, di una, beh, di una nuova versione, diciamo. Beh, diciamo la nuova versione. La nuova versione, il fascismo. Lei che cosa farebbe nel fascismo, Yonghi Lavarini? Che ruolo le piacerebbe in uno Stato italiano di nuovo fascista, Yonghi? No, Barone? Semplicemente un buon cittadino, perché in uno Stato serio, quello che voi chiamate fascista, è semplicemente uno Stato serio che fa gli interessi del popolo e della nazione, dei lavoratori, degli imprenditori, delle famiglie. Vabbè. Uno Stato serio che garantisce la sicurezza. Però, di tutti, ecco, i cittadini. A proposito, ma i Rom, lei che fine quello farebbe? Che voi chiamate fascista è semplicemente uno Stato serio. Ma no, ma lei pure, lei pure lo chiama fascista, Yonghi, dai, su. Perché coincidono le cose. Ma coincidono? Voglio uno Stato serio che garantisca, la sicurezza, il benessere. Ma ecco, appunto, i Rom, lei che fine fare? Che popolo italiano. Ma che lei che non fine? Come questi politicanti servi delle banche che fanno solo gli interessi. Vabbè, ma lasci perdere lei ai Rom, che fine farebbe fare i Rom, Barone Nero? Guardi, adesso seriamente. No, che seriamente? I Rom, no, seriamente, i Rom sono gli zingari, questo è il termine. Zingari, esatto. Certo. Sì. Gli zingari d'Italia sono circa 200.000. Sottolineato, sì. Poi? Se almeno la metà non sono italiani. Questi non italiani, anche se sono di paesi comunitari, via, con i provvedimenti cacciati, vanno cacciati a casa loro, rispediti in Romania, in Bulgaria, nei paesi dell'attuale della ex Jugoslavia. Bene. Via, e già dimezzeremmo il problema cacciando gli zingari. Senta, ma nella nuova destra con Salvini c'è posto per gli omosessuali? Ma guardi, la famiglia è una. Vabbè, d'accordo, però tradizionale, gli omosessuali è una donna che fanno figli. Vanno rieducati. Guardi, massima tolleranza, rispetto per tutti, per tutti, quindi vabbè, anche per tutti i gusti sessuali e religioni, qualunque ma cosa. Scusi, posso fare, però posso chiaro, fare aspetta, Barone, aspetti. Scusi, del nostro Barone. Popolo e il popolo si sviluppa con uomo e donna che fanno figli. Questa è la natura, non è che. No, per carità, Barone. Altro che la natura. Aspetti, Barone, che c'è? Parenzo, dimmi. No, volevo capire, che cosa fa tutto il giorno il Barone? Ogni tanto viene da noi una volta. A differenza sua, lavoro, veramente. A differenza sua, Parenzo, Barone, fermo, Barone, lavora. Devo chiudere. Non vita a dire minchiate in televisione e radio. A differenza Barone. Di Parenzo, Roberto Yonghi, no, dimmi, lavora. Barone, la devo richiamare. Barone, devo chiudere. Alla prossima, tanto c'è tempo qui. Arrivederci. Ciao.